Allora, Gabriele Vasquez, Gabriele Niola. Come va? Bentornato. Grazie, è un piacere. Dovrei tirarti le orecchie perché non rispondi ai messaggi e neanche al telefono quando dobbiamo fare le dirette. Ma è ti perdono per il momento. Una terribile distrazione di un momento. Sì. Avevi altro da fare, immagino. Vedi, allora, dei film. Venezia. Abbiamo Monica Bellucci, Ezio Greggio, Madonna. Un trittico che spacca di quelli proprio. Quale dei tre peggiori è stato? Guarda, secondo me non c'è paragone. Ezio Greggio è stato un... Ezio Greggio addirittura? È veramente un film inguardabile. Io non so se qualche ascoltatore è andato a vederlo per ridere, cioè con lo spirito goliardico, cioè voglio farci che... risate. Esatto. E vorrei sapere magari che ne pensano, perché veramente è un film inguardabile. Cioè, se non lo facessi per lavoro è un film da darsene a tre quarti, insomma. Cioè, è proprio terribile. Tra l'altro poi è un film che è in 3D e palesemente è un pessimo 3D. Ma proprio palesemente, cioè, quando, è fatto apposta quando, proprio? No, non credo fatto apposta, però palese lo vedrebbe chiunque. Quando gli oggetti devono uscire non escono, capito? Non c'è quell'effetto dell'oggetto. Ah, quindi è proprio sbagliato. Sì, non c'è l'effetto dell'oggetto che esce dallo schermo. Si ferma allo schermo, cioè è una cosa anche proprio brutta a vedersi. Ma forse l'hanno fatto apposta per fare un film proprio italiano 3D, insomma, sai, facciamo forse, una cosa, forse io non uno l'ho scherzo, capito. Forse non l'ho capito. Non hai capito la filosofia dell'artista. Forse era quello. No, ma c'ha un finale. E solo tu, perché diciamo box office 3D è nei primi tre in classifica. Esatto, di box perché office. Invece poi il pubblico, non la critica, che il è pubblico, quello che decide. Esatto. Oh. Il pubblico l'ha premiato almeno al primo weekend, cioè adesso siamo al secondo, ma al primo aveva fatto un ingresso, un incasso, calcolando la media per sala, quindi in proporzione col numero di sale in cui sono usciti, di poco superiore a Super 8. Che è che invece un tutt'altro tenore. Esatto, un film tutt'altro budget, tenore, spessore intellettuale, insomma, veramente da un'altra parte. E il suo Greggio tira, c'è poco da fare. Qui la critica si ferma, capito? Di fronte a queste cose. Come ti metti? Niente, ragazzi. Voi critici siete gente sorpassata dal box office. Ma anzi, voglio dire, proprio da Ezio Greggio. Come noi esperti e critici musicali siamo sorpassati, perché mandiamo la musica un po' strana, tipo cinema turco, eccetera. Dicono Mietta. Personaggi Mietta. Curiosi, capito? Considerati, esatto, considerati come personaggi curiosi. La cosa più strana di questo film di Ezio Greggio, a parte tutto, perché comunque, cioè, secondo me poi il brutto cinema è parte del sistema cinema, ci sta, non è che si possa cancellare, è che è un film vecchio, cioè sembra il film di Natale di almeno 10 anni fa, almeno, proprio non... Adesso i film brutti sono brutti in un'altra maniera, è proprio strano, fuori dal tempo, ricorda molto, non so se ti ricordi, durante al drive-in, quando lui faceva il drive-in, c'erano, sì, intervallavano i vari sketch con delle parti filmate in precedenza e facevano le parodie dei film. Alle volte era Ben Hill, alle volte era le parodie dei film. E sembra proprio quello. Sembra proprio quello. Antica proprio. Capito? Vecchio proprio. Con dei punti in cui si rincorrono velocizzati. Cioè, sono delle cose proprio. Invece, ma sul serio stiamo a fare questa cosa? E invece il pubblico. E il pubblico ragione. Lo premia. Va pagando bene. Un biglietto maggiorato, perché poi è in 3D, quindi il biglietto costa anche di più. Ah, ecco, vedi. Però in questi casi, quando c'è il biglietto maggiorato e il pubblico va a vedere un film brutto pagando di più, e il critico gode. E lì che e dice, beh, hai pagato pure di più. Allora, invece, Madonna, la tristezza Madonna, film. Madonna, guarda, c'è da dire una cosa però. Gli si può dire tutto e gli si può dire tutto. Ma tutto gli si può dire. Esatto. Però non si è parlato d'altro quando c'era Madonna. E c'erano anche Roman Polanski. E c'erano un sacco di cose, insomma, anche appetibili per i giornali, per le cose. Quando c'era Madonna non si è parlato d'altro. E io non sono riuscito a ottenere l'intervista. Pensa io, capito? Io. Uno come te non ha ottenuto l'intervista. Pensa il divismo che... Ma il film di che parla? Che è? Allora, il film è un film biografico che racconta la storia di Wally Simpson, che fu la donna per la quale il re d'Inghilterra abdicò. Per sposare la quale il re d'Inghilterra abdicò. È il secondo film che fa Madonna, quindi non è nemmeno il primo. Meno male che sono pochi. E sono film molto. Sono film. Adesso dirò questa cosa banalissima, però lasciamela dire. È proprio come la sua musica. Ah, è proprio una cosa così. Sì, no, sono film patinati, ben fatti, tutti corretti. Cioè, non è che c'è qualcuno che stona, non è che la cosa è. Però niente. È una niente. Scatoletta vuota. Sì, diciamo, esatto, così. È tutta una scatoletta ben acchitata. Invece, devo dire, Monica Bellucci. No, vi metto in mente un'altra cosa. Ah, pensando a film che riguardano musicisti che personalmente non stimo. C'è un film a Venezia uscito, Sottotono, un documentario su Vasco Rossi, che è appunto un musicista che io personalmente non stimo, però insomma c'ha tutto un suo seguito, una sua cosa. Questo documentario si chiama Questa storia qua, e io sono entrato in sala, come mio solito, colmo di pregiudizi, ma in una maniera con la proprio puzza sotto il naso, dovevo solo firmarla la recensione, la dovevo solo firmare, già l'avevo scritta prima di entrare, il giorno prima. Esatto. Bravo, bravo. E invece è un gran bel film, perché si occupa molto poco della musica di Vasco e molto delle origini, una cosa che io personalmente veramente non sapevo, cioè tutta l'origine, la parte che ha lavorato in radio, il paese da cui è venuto, ma lo fa con una sapienza cinematografica, con una fotografia straordinaria che unisce addirittura, sul serio, lo dico sul serio, poi ci tengo a eccedere in dettaglio, a dire cose belle, perché sono tutti ragazzi, sono veramente dei pischelli che l'hanno fatto, di Roma tra l'altro, c'è questa fotografia straordinaria che unisce personaggio e paesaggio, cioè ogni volta che si parla di un cambiamento nella vita di Vasco, di quello che è successo, è sempre correlato alle montagne, le zone dove stava, oppure si è trasferito, è andato a Milano, è andato a Los Angeles, non lo sapevo, una parte della sua vita lui l'ha trascorsa a Los Angeles, e fanno questo lavoro molto complesso dove appunto la musica rimane molto ai margini ed è molto questo ambiente, queste persone sono intervistati tutti, praticamente tutti gli abitanti del paese da dove viene Zocca, e molto appunto sull'ambiente che crea un certo tipo di musica, di rocker, di, beh, poi chiaramente il documentario è su Vasco ed lo considera moltissimo, che è l'unica cosa sulla quale io non concordo, però comunque è veramente un bel documentario musicale. Questa storia qua, tra l'altro, è nei cinema. Nei cinema io ve lo consiglio. E calcolando che è un documentario che è piccolo e che è distribuito in poche sale, ha fatto un bellissimo incasso, 194.000 euro. Insomma. Questa settimana, però, è complessivamente 520.000. Esatto, mica esatto. Pochi, è al nono posto. E sta a 200.000 euro sotto Ezio Greggio. Insomma, una signora cifra. Se potete, se vi interessano queste cose, insomma, e anche se non vi interessa Vasco, è un bel film. Questa storia qua di Alessandro Paris e Sibyl Righetti. Bene. La non attrice Monica Bellucci, prego. Allora, la non attrice Monica Bellucci ha fatto, perché non è un'attrice. Cioè, parliamoci, diciamo, chiaro. Allora, sulla carta sì, cioè se fossimo in un tribunale io dovrei dire che è un'attrice, certo, sì, esatto. Però diciamo, però a livello è ingiustificato, a come a livello critico. Esatto, non proprio. Ha fatto un disastro, ha fatto un film da attrice, cioè ha fatto un film difficile, che ci vuole gente brava a farlo. Ma non è che è stata lei a decidere, l'hanno chiamata, perché infatti, la colpa è di chi l'ha chiamata. Di Louis Garrel. Louis Garrel ha fatto questo film che si chiama Un Et Clan, ancora non ha un titolo italiano perché non è ancora sicuro che lo distribuiranno in Italia, chi lo sa. Abbiamo riso talmente tanto alla proiezione stampa che forse potrebbero anche non distribuirlo in Italia. È un film francese ovviamente, e lei recita e fa la parte di un'italiana, poi sai, lei ha avuto una grande carriera in Francia, non si sa perché, però ha avuto una grande carriera. Te lo dico io perché. Perché? Perché è doppiata. No, no, in Francia non doppiano. Lei parla francese. Parla francese? Eh sì, sì. E forse è per questo. Forse è per me, perché pensano, ma recita male perché non conosce non la lingua. Non conosce la lingua. Perché guarda, credimi, ho visto Shoot 'Em Up, ancora sono sotto botta, guarda. No, lei lavora in Francia. Il film è bello, quando entra lei diventa una cosa. Beh, e io non ci capisco nulla di cinema, sono proprio veramente. Sicuramente gran parte delle ragioni per cui lavora bene in Francia è anche perché è sposata a Vincent Cassel, che invece è un attore molto forte, molto, molto lanciato. Bravo, sì, sì, è uno poi anche molto dentro il sistema. Insomma, questo film, Un Et Clan, è un film molto autoriale. A me non è piaciuto, però è molto autoriale, di quelli proprio grandi silenzi, grandi momenti intensi di cinema francese dentro. Di quelli bianco dentro, e nero. Esatto. Sì, colorato per sbaglio, secondo me ha rosicato quando ho visto che era colori. E insomma, appunto, è un filmone autoriale vecchio stampo. A me non è piaciuto proprio perché è vecchio stampo. E a lei viene data una parte, innanzitutto viene data la parte di una grande attrice, cioè lei nel film fa una grande attrice. E il che già è esilarante. Come se dovessi fare io un grande musicista. Esatto, è una cosa da un grande morire, chitarrista. Da morire da ridere, perché poi cioè ti tira fuori, oh, proprio un film, te ne tira fuori ste cose. E ci sono dei momenti in cui proprio il film, per come è fatto, si affida alla recitazione. Cioè c'è una scena particolarmente drammatica, particolarmente sentimentale. Il regista conta che questa scena riuscirà a trasmettere pathos con un bel primo piano di Monica Bellucci. Ma no. Sì, è una frase intensa magari. È che il risultato è esilarante. Lei però, io secondo me ho capito qual è il problema. Lei si deve... a fondo della questa sì, questione esatto. Lei si deve far doppiare. come le grandi artisti italiani anni 50-60. Lei si deve far doppiare, perché secondo me il problema è lì proprio. Ma probabilmente sarà quello, certo. E poi inquadrarla da lontano e basta, cioè, nei primi piani, perché poi rimane sempre la stessa, capito? Chi è? Vuoi dire qualcosa? Prego. Posso dire una cosa? La voglia? Che è strana. Lo sapete che io ho una sensazione? Cioè? Che lei cominci a diventare meno bella. Ecco. Guardate che è una cosa strana questa che sto dicendo, eh? Beh, ha anche un'età adesso, eh. Ma non solo per questo, cioè... Forse una serie di sforzi, di cose, la sta trasformando, cioè ha perduto quella bellezza, diciamo, a prescindere ideale, dall'età, comunque, sì, sta, ho capito che vuoi dire. Sta prendendo delle sì, però no, le sue forme, il suo corpo, certo, è quello che è, però c'ha delle espressioni che cominciano a essere vecchie, roba vecchia, sì, meno affascinante, vecchie inteso che si stanno disgregando, cioè che stanno perdendo vitalità. Sì, ho capito, ho capito. Sta cristallizzando come in una. Bene, scusa se mi sono permesso. Ma figurati, puoi fare quello che vuoi, Marcus. No? Allora, vabbè, ma torniamo a Venezia. Insomma, com'è andata? Chi ha vinto? Chi ha perso? Allora, esatto, cioè, giusto, giusto. Bravo, bravo che mi rimetti in riga su queste cose. Santa perché... pace. Allora, tra l'altro, devo dire una cosa. Poi riguardo Venezia, è in questi giorni. Soffiate il naso. Perché... Guarda, sto. Si sentirà, ma sto veramente a pezzi con questo naso. In questi giorni. Cioè a Roma la rassegna dei film di Venezia. Si chiama Venezia a Roma. E fanno per una settimana molti dei film che sono passati a Venezia in alcune sale. Poi alcuni di questi, per carità, poi riusciranno nel corso dell'anno, ma intanto fanno come un'anteprima. Guarda, questa è una cosa. Io ci parlavo ieri con quelli dell'Anica di questa cosa. L'Anica è la società che gestisce queste cose. È ogni anno una ressa infernale, cioè c'è una domanda per questi film di Venezia incredibile. La gente fa cazzotti per entrare in queste sale. Io poi ci sono andato perché dovevo recuperare un paio di film che non avevo visto. Un'impresa, vai alle 6 per prendere il biglietto delle 10:30, cose da cinema di una volta proprio. Bella sta cosa. Cacolo, cioè quelli che stavano in piedi dietro. E la fila, le cose, quelli che escono e ti dicono basta, finiti, i biglietti sono finiti, tutti tornano a casa. Il bar accanto, non dico quale perché farebbe, il bar accanto al cinema dove sono stato faceva bagarinaggio, ne aveva comprati alcuni e li ridava. Cioè delle scene allucinanti per vedere film tipo Faust, che è il film che ha vinto, un film russo sottotitolato di 2 ore e mezza su un'opera di Goethe, che tu diresti ma questo non lo vuole vedere nessuno, invece un si sacco faceva di cazzotti, gente, una cosa che veramente mi ha riempito il cuore di gioia. Bene. E niente, quindi come ho anticipato ha vinto Faust, che è un come avete capito dal titolo si basa sull'opera di Goethe, è l'ultimo film di Alexander Sokurov, che è uno dei più grandi registi russi contemporanei, e da questi piccoli indizi tipo russo, Goethe, Faust, avrete capito che non è che un film, è un mattone, è un bel mattone, dai. Non è il massimo del commerciale, diciamo che se non dovesse incassare, se non dovesse incassare non mi stupirò. Nel senso che è un film molto molto intellettuale, però devo dire sinceramente è secondo me il film più bello che si è visto nelle ultime 4 edizioni di Venezia, almeno. È veramente un film straordinario che tutti quanti abbiamo detto appena l'abbiamo visto, questo vince, perché era fuori da ogni canone. Se vi piace, insomma, se vi piace un certo tipo di cinema dovete andarlo a vedere per forza, ma io lo consiglierei anche a certo tipo di cinema. Cos'è secondo te? Allora, è un cinema che sostanzialmente non ti viene incontro. Il cinema americano, che è sicuramente più facile da guardare, alle volte è anche bellissimo, ma io non sono assolutamente contro. Fa un lavoro in più che gli altri non fanno, cioè ti viene incontro, tu sei seduto sulla sedia e lui ti viene a prendere anche se tu non lo vuoi. Invece questi altri film non fanno questo lavoro, sei tu che ti devi mettere in un atteggiamento per il quale ok, adesso ti seguirò, farò un percorso come nel caso del Faust, neanche facile, cioè è come, sai, come scalare una montagna, adesso ci mettiamo e scaliamo sta montagna. Però non sempre così, in questo caso lo è. Arrivati in cima sei proprio soddisfatto, cioè ho fatto una fatica, abbiamo fatto un viaggio allucinante, però cavolo, ne è valsa la pena, cioè mi hai dato delle cose che solitamente gli altri film non mi danno, mi sono impegnato e mi è tornato indietro qualcosa. E questo film è così, è un film che adatta in maniera molto strana la storia di Faust. Io anzi vi consiglio, se volete andarlo a vedere, di darvi una scorsa veloce alla sinossi, anche su Wikipedia basta, la sinossi del Faust, giusto per capire di che stiamo parlando, perché in realtà il film, il Faust inizia col che lui sigla il patto col diavolo, fa il patto col diavolo col sangue, e il film praticamente finisce col patto col diavolo, quindi tutto il prima. È un film che si concentra sul potere, sul fatto il potere che ha il diavolo sulle persone. È un film molto parlato, ma molto di immagini. Cioè, è molto difficile parlarne, come capite, perché è un... Ma si ammazzano, si sparano. No, è un peccato, film... Peccato. Ci sono esplosioni. C'è il 3D. No, però è tutto... È una grandissima produzione. Solitamente questi film sono molto poveri. Invece è una grandissima produzione russa. È molto digitale. Per esempio, ecco, questo ve lo posso raccontare. Inizia, c'è un'apertura stupenda. Si inizia con nuvole, come se tu fossi un uccello che vola tra le nuvole. Queste nuvole si diradano, chiaramente è tutto digitale. Le nuvole si diradano e si vede un villaggio incastrato nei monti, ma tutto molto oscuro. Sembra una cosa a metà tra Il Signore degli Anelli e un film di Zemeckis, del lato oscuro di Zemeckis. E c'è questo volo d'uccello che piano piano si avvicina a questo villaggio, che è una cosa bellissima, ma proprio bellissima. Cioè, il film è appena iniziato e già siete conquistati. E lungo tutto il corso del film accadranno tali e tante cose. Ci sarà un... Lui ha un modo di mettere in relazione quello che succede con i posti in cui succede. Per esempio, lui viene condotto dal demonio, che non sa essere il demonio perché ha preso forma umana, attraverso vari posti. E camminano, si spostano, fatti conto, dalla casa a, in questo villaggio ricostruito, dalla casa a un bagno pubblico. Eppure, ma è girato ai giorni nostri? No, è girato in costume. Ah. Benché tu li segui per tutto il loro tragitto, perché loro parlano, fanno e noi li seguiamo, alla fine quando arrivano, io non so spiegarvi perché, ma sembra che ci siano arrivati per magia. È una delle tante cose particolari di questo film, che appunto è una produzione mostruosa, molto sponsorizzata da Putin. Sai come capitò a noi quando ci fu Baria, che poi Berlusconi, che ci aveva messo anche i soldi, cominciò a spingerlo. Quindi è un film che è già stato comprato per l'Italia, quindi uscirà in sala da noi, girerà molto, e quindi avrete occasione di vederlo. Quindi insomma, se decidete di vedere un film autoriale l'anno, beh, è questo sicuramente. Dici che è il film dell'anno, insomma. Cioè, ma secondo me può essere anche il film degli ultimi 3 anni. Cioè, comunque è un'opera straordinaria, veramente. No, io sono rimasto... È la prima volta che ti sento così entusiasta. Beh, guarda, raramente mi è capitato... Ah, scusa, sei uomo, entusiasta. Raramente mi è capitato di vedere cose simili al cinema. Che solitamente li vedi in televisione perché sono film vecchi, perché insomma non è che li vedi in sala. Raramente l'avevo vista in sala cose del genere, veramente impressionante. Mi stai stupendo, Vasco. Questa Venezia, che cosa ti ha dato questa Venezia? Un sacco di soldi. Beato te. Feste ne hai fatte, sì, immagino. No, ma io conduco un'esistenza ritirata, molto moderata. Su Facebook sono le foto taggate. Non te ne sei accorto? Sono fotomontaggi. Ma quello era prima di Venezia. Ah, ecco. Anzi, adesso ti racconto questa chicca. Questa è una chicca che ho solo io, che racconto solo a te. Attenzione. Sì. Praticamente, questo riguarda il film Vincitore. È un dietro le quinte del Vincitore. Io, Sokurov, l'avevo incontrato 4 anni fa in una grande intervista che gli feci, perché lo beccai e riuscii a intervistarlo. Che bravo. Madonna, che reporter. Ma tutto. Che reporter sono. E lui in questa intervista mi disse una cosa che mi colpì una cifra. Mi disse: io in un festival, in concorso, mai. Ma guarda, mai. E lui ha un'esperienza ventennale già, quindi mai stato e mai ci andrò. E sai perché? Perché è immorale, non è per nulla etico e andrebbero tutti cancellati. Fece una cosa del genere, io rimasi stupidissimo, non avevo mai sentito nessuno pronunciarsi così contro i concorsi. Perché è immorale, perché i film non si fanno gareggiare l'uno contro l'altro, perché lui deve dire che il mio è migliore di un altro o peggiore di un altro, ma stiamo scherzando. Vado alla conferenza stampa delle presentazioni di Venezia e vedo Faust in gara. Che è successo? Che è successo? Sono andato a fare. Mi hanno concesso una sola domanda con lui ed è stata solo quella. Diceva tu 4 anni fa. Ma detto... Esatto, ho detto 4 anni fa. Gli ho raccontata proprio tutta come te l'ho raccontata a te. Raccontata. E lui la prima cosa che mi ha risposto è stata: sei sicuro che io sono stato così perentorio? E io ho fatto: sì, proprio così. Guarda, mi sa che l'hanno tradotto male. Però poi ha aggiunto: però confermo, cioè non sono così perentorio, però in effetti andrebbero cancellati, non dovrebbero farsi. Io l'ho detto a tutti i direttori di tutti i festival che li devono cancellare. Però sono venuto qua, poi ha detto proprio: perché questo film è costato un sacco di soldi e va promosso. Cioè, proprio ha fatto ha ammesso quella che è la verità. Poi vabbè, ci fermiamo e poi parliamo dei film che usciranno questa settimana, certo. O che sono usciti e che hai visto, perché certo, le avrei sicuramente i visti tutti. Consigli della settimana. Bene. Quindi quindi veniamo a parlare di cinema, delle uscite che sono già uscite, di quelle che usciranno e di quelle che escono oggi. La più grossa di tutte quelle già uscite è sicuramente Super 8. Super 8 che è primo nel box office, che l'abbiamo atteso per tantissimo, è il film di J.J. Abrams che si ispira ai film di Spielberg. È un film che vi consiglio tantissimo perché, per due motivi: un po' perché è fatto veramente come i film di Spielberg, tipo Incontri ravvicinati, tipo E.T., ma comunque anche quelli che produceva, tipo i Goonies o Explorers, ma soprattutto perché è un film che da altri tempi, che ti ricorda proprio quei film che vedevi negli anni 80. Sì. E ha poi anche nella seconda parte molto quelle qualità delle cose che fa J.J. Abrams, ovvero lui è l'ideatore di Lost, ma ha fatto anche Cloverfield, Star Trek, insomma ha questo dono di dare un po' una cosa misteriosa a tutto, ha una sua aura tutta particolare, per cui da questo mix di Spielbergismi e roba di Abrams esce un film molto molto molto carino. Certo, non è che è E.T., non è a quel livello, che sennò quello era Spielberg, no. Però comunque è un film validissimo che è molto bello vedere, anche proprio per cogliere tutti i dettagli, le piccole citazioni, le piccole cose che ci ha inserito. Veramente, veramente carino. Altri film? Prego. Allora, io sto vedendo che usciranno prossimamente un sacco di film: L'alba del pianeta delle scimmie, porca miseria, Spider-Man, quello... Sherlock Holmes, Underworld. L'alba del pianeta delle scimmie è già settimana prossima, mentre invece gli altri che dici sono un pochino più avanti. Ma soprattutto comincio a dirlo, non ne parlo perché ci mancano due settimane, ma comincio a dirlo da ora: tra due settimane esce Drive. Drive è un film straordinario, veramente vedrete. Drive. Io aspetto con impazienza Cowboys and Aliens. Ah, cioè, per carità, cioè, quello, ancora più avanti quello. Ora il 30 settembre esce Drive ed è un film talmente, è un film molto piccolo, poi di un regista che non è molto noto, ma è talmente forte che per promuoverlo hanno fatto una cosa che non si era mai fatta in Italia. Hanno messo dal 9 all'11 settembre nelle sale, chi è andato al cinema nel circuito The Space ha potuto vedere prima del film che doveva vedere, che è andato a vedere, 10 minuti di Drive, i primi 10. Perché ha un inizio molto molto forte, è un film di inseguimenti, di macchine, ma autoriale, è una cosa strana. Per cui c'è questo inizio bellissimo in cui lui scappa dalla rapina, lui fa l'autista di rapinatori, per cui aiuta questi rapinatori a scappare da una rapina che è una fuga da una rapina straordinaria come non ne avete mai viste. Perché è piena di tensione, come spesso capita in queste cose, ma va pianissimo, cioè non è un inseguimento folle, lui va pianissimo, eppure c'è una tensione incredibile. È veramente un film molto particolare, vedrete, ne parleremo una cifra, si chiama Drive ed è con Ryan Gosling. Ti è venuto da qualche, cioè da questo sabato è venuto una cifra. Una cifra è venuta una cifra. Non è mai partita questa cosa qua di una cifra, però te la sottolineo, sì, perché non è molto è un nuovo modo. Beh, noi giovani, è un neologismo di noi giovani. Insomma, invece, questa settimana il film più importante che esce è senza dubbio I Puffi. È senza dubbio I Puffi, che, come dice giustamente il titolo, è esattamente l'adattamento dei cartoni animati e prima ancora dei fumetti di Peio, fatto in live action, cioè fatto con gli attori in carne e ossa. Certo, i Puffi sono digitali, sono Puffi. Però è fatto con i cartoni, cioè Gargamella è uno. Questa è una cosa già che a me mi fa impazzire, cioè è assurdo. Io sono entrato come mio solito pieno di pregiudizi, figure del film dei Puffi, ma stiamo a scherzare, figurati. E invece mi sono trovato di fronte, anzitutto, a un film, chiaramente per bambini, ovviamente, però molto ben fatto. Tra l'altro, un film con, io lo dico, degli effetti speciali fuori dal normale. Cioè, il modo in cui sono fatti i Puffi. Oh, ma tu sei tornato a Venezia, no? Carico a pallettoni. È tutta roba bella. Porco caneo. Vedrete, chi ha dei figli dovrà andarlo a vedere. Il modo in cui sono fatti i Puffi è veramente, veramente lo stato dell'arte dell'animazione, della CGI. E settimana prossima che esce Pianeta delle Scimmie, questo film sarà superato, perché io già lo so che Pianeta delle Scimmie sta ancora avanti. È il team di Avatar che continua a fare, continua a portare avanti quel tipo di tecnologia per il motion capture. Ci sono le scimmie del Pianeta delle Scimmie che sono fatti da uomini, sono pazzesche. Già se vedete i cartelloni che sono per strada, l'espressione che ha quella scimmia ti atterrisce. Ma è 3D? Non è 3D quello lì, è solo tutto il, diciamo, l'effetto e tutto quanto nella cattura dei movimenti, nelle espressioni delle scimmie che sono... Sai, poi è la storia, questa qui, l'alba del pianeta delle scimmie, è la storia di come facendo riferimento al film con Charlton Heston, le scimmie hanno preso potere, come sono diventate intelligenti, per cui c'è proprio il processo della scimmia che parte col cervello da scimmia e diventa intelligente, l'espressione si fa sempre più sofisticata, insomma è un comunque dicevo dei puffi è un film, ma poi si vede, beh, poi c'è lo svolgimento dove le scimmie poi conquistano, ancora non l'ho visto, ma so che arriva fino a un certo punto solamente, cioè non è che si ricollega proprio al film di Charlton Heston, però è l'inizio, come tutto è iniziato. Dicevo i puffi sono andato, mi hanno portato a una proiezione per la stampa la domenica mattina con tutti i bambini, non so, hanno fatto un evento misto stampa e bambini, ma era il delirio, cioè era l'Adriano in cui in tutte le sale facevano i puffi, tutte, un miliardo di bambini con un genitore ogni sette, capito, questa era la media, era... Cioè, è una cosa. E facevano, poi mi fa morire perché si riciclano i trucchi da concerti rock. Prima del film, mettevano tutti i bambini nelle sale e lanciavano i palloni grossi, quelli leggeri, capito? Sai come facevano i concerti? Ah, sì, E sti ragazzini hanno preso questa, una cosa infinita, poi a urlare durante il film. Però in effetti ho potuto anche tastare il gradimento. E la cosa inusuale per questo tipo di film, che sì, piace sicuramente ai bambini, si sentiva che piaceva, è che poi l'hanno fatto questo qui anche per prendere i genitori. Cioè, ci sono dei momenti in cui gli attori in carne ed ossa coinvolti hanno delle problematiche da genitore proprio, in cui i bambini si annoiano molto, ma teoricamente dovrebbero acchiappare anche quell'altro tipo di pubblico. Non sapete con chi avete a che fare. Il nuovo film di Nanni Moretti. Cominciamo. La presentazione, il trailer dell'Alba del Pianeta delle Scimmie. Ah, ok. Sai, noi siamo sul pezzo. Sempre sul pezzo. Invece, altro tipo di pubblico, in uscita questa settimana, Carnage, il nuovo film di Roman Polanski. Allora, ne parlavamo prima con Tony. Esatto. E anzitutto è un film da morire da ridere. È un film molto divertente che viene da un'opera teatrale, quindi è tutto girato in un ambiente solo, e diciamo che se conoscete un minimo Polanski sapete che lui queste cose ama farle, cioè girare film in ambienti costretti. Aveva iniziato la sua carriera col Coltello nell'acqua, che era un film tutto su una barca, poi ha fatto La morte e la fanciulla, che è un altro film tutto quanto in una casa, Rosemary's Baby non è tutto quanto in una casa, ma si svolge molto in una casa, è molto importante quello che succede in quella casa, insomma è o anche L'inquilino del terzo piano, Repulsion, insomma ce ne sono di film che lui ha fatto così. Carnage diciamo non è sul solco di questi film, perché è un film molto molto da ridere, molto divertente, in cui c'è uno straordinario Christoph Waltz, l'attore che in Bastardi senza gloria faceva il nazista Hans Landa, e insomma è un è una storia che lui ha fatto, si vede proprio che lui ha scelto quest'opera teatrale perché va a toccare dei temi che sono poi quelli suoi dell'attualità, cioè il fatto che lui è stato messo agli arresti domiciliari, che comunque l'hanno dopo tanti anni sono tornati a cercarlo. So che è un libro però, Tony, sì, no, è un libro. È un'opera teatrale proprio, viene dal teatro, però lui l'ha scelta e riadattata perché parla di quelle cose che gli interessano, insomma. Si racconta di due coppie di genitori che si... Cosa stai facendo? Lo schienale che cico. Si racconta di due coppie di genitori che si incontrano a casa di una delle due coppie, per discutere del fatto che i loro figli hanno fatto a botte e uno ha fatto molto male all'altro, cioè gli ha fatto un taglio sul labbro. Da questa cosa, da questo pretesto, ne viene fuori un dialogo che a un certo punto diventa infuocato su chi ha colpa, chi è in grado di dire chi è il colpevole, fino a quanto dobbiamo perseguire i colpevoli, tutti i temi chiaramente che guardano la storia di Polanski. E come se non bastasse proprio a dire, vabbè adesso ve lo voglio proprio dire esplicito, il bambino che fa il colpevole, quello che ha fatto del male, è Elvis Polanski, nipote di, cioè proprio, capito? Stiamo a fare cose, la stiamo a fare palese proprio. E c'è anche un piccolo ruolo, lui c'è un piccolo ruolo, a un certo punto loro escono dall'appartamento e vanno nel pianerottolo, e un vicino di casa apre la porta perché sente vociare ed è Polanski. Una cosa proprio minima. Insomma, c'è proprio c'è di tutto. Comunque, vedrete che è un film che si muove veramente, fa un lavoro molto bello sulla recitazione, sugli attori, sul muoversi in ambienti stretti e soprattutto è molto divertente. Telegrafico con The Eagle. The Eagle è un film sugli antichi romani. Vedi? Un film sugli antichi romani. Ma non c'è nulla di più lontano che possiate immaginare dal cinema, dagli antichi romani nostro che facevamo noi, dai peplum alle cose più recenti, ma in fondo anche dal Gladiatore. Il Gladiatore c'aveva molti americanismi, ma sostanzialmente, bene o male, era un film che teneva. Questo è veramente un film americano ambientato nell'antica Roma. Cioè, loro si racconta di un legionario, no, un ufficiale romano che si fa mandare in Britannia, al Vallo di Adriano, quindi proprio al confine, perché anni prima il padre lì era morto, aveva lasciato la vita e aveva perso le insegne romane, che era una cosa molto prestigiosa. Quindi lui doveva recuperare queste insegne. Perché questa cosa aveva infangato la sua famiglia e quindi lui si fa assegnare questo lavoro. Chiaramente è a contatto con i britanni, la popolazione locale, che sono per i romani barbari, perché sono chiaramente vengono da fuori dei confini. E questo rapporto romani-barbari è cowboy e indiani, identico. Cioè che lui pensa che siano dei selvaggi, poi si troverà in mezzo a loro e scoprirà: ma no, siamo noi romani che siamo dei bastardi, barbari. Veniamo qua e li invadiamo. Loro hanno un sacco di tradizioni, non sa qual è. Veramente, ma poi anche nelle dinamiche spicciole si comportano e parlano come degli americani. Non c'è proprio, è proprio veramente stona. È un film che stona tantissimo. Però guarda che ti faccio sentire, aspetta. You're gonna stay with your aunt and uncle for a little while. You'll be safe here. Where are you going? Something your mom and I have to do. I want to go with you. Yeah, we have to go. Tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. Trailer di L'Uomo Ragno. Di Spider-Man. Caro mio. Sta arrivando. Quando è questo? Quando è? Vediamo un attimo. Prossima settimana, se non sbaglio. No. No, ci vuole. Eccolo qua, guarda. Senti che ti faccio sentire. Padre dei nostri padri, aiutami a guidare i miei uomini con saggezza. Fa che non disonori la mia legione e ti prego, aiutami a riconquistare l'onore della mia famiglia. Il nuovo comandante, Marco Flavio Aquila. Quarta corte di Gallia, seconda legione. È il suo primo comando? Esatto. Raduna gli uomini. Formazione a testuggine! Sai bene chi era suo padre? L'uomo che ha perso l'Aquila della nona legione. Oltre a ben 5.000 uomini. Dicono che l'Aquila sia stata vista nell'estremo nord. Non puoi sopravvivere a nord del Vallo da solo. Troppo rischioso. Allora verrà Esca. È uno schiavo. Ti taglierà la gola non appena resterai solo. Vita! Apri il cancello, soldato. Chiama Marco Flavio Aquila, me l'ero dimenticato sto dettaglio. Cosa. Infatti sono rimasto a bocca aperta, dico, ma... Stupendo. Comunque L'Uomo Ragno esce in Italia a luglio, hai voglia? A mappa a luglio, tra un anno? Luglio, sì. A mappa. Infatti mi ricordavo che era in alto mare. Proprio. Vabbè, Il Debito, dai. Ah, Il Debito è il più classico dei film post-nazismo, cioè era un filone che andava molto una volta. Questi film, che fine hanno fatto i nazisti? Negli anni 60 e 70 spesso si facevano questi film in cui si raccontava, tipo I ragazzi venuti dal Brasile, in cui si raccontavano... Bellissimo film. Esatto, cose che sono successe dopo il nazismo, o anche Il Maratoneta, in cui c'è l'ex nazista che tortura Dustin Hoffman, insomma... Un altro con un grandissimo attore. Esatto. Chi era lui? Era Coso, sai, non viene manco a me. Forse uno dei più grandi attori di teatro. Non vorrei sbagliare. Devo andare a guardare perché al momento non viene manco a me. Però sì, un grandissimo inglese, se non sbaglio. Sì, infatti era Laurence Olivier. Insomma, era un filone che si faceva molto una volta e che non si fa un po' più. Invece Il Debito lo recupera e racconta questa storia di queste tre persone che proprio subito dopo la seconda guerra mondiale sono incaricate di andare a stanare nella Germania dell'Est un nazista che si è rifugiato e si è mescolato agli altri. Questa cosa è fatta un po' guardando quello che successe all'epoca e un po' ai giorni nostri, quindi queste tre persone anziane, e si capisce che c'è qualcosa che è successo che non è chiara, che fa sì che oggi nell'era moderna questi abbiano un segreto praticamente. Ma li mandano adesso, cioè si svolgono in questo cioè, oggi lo vedi su due piani temporali, loro da giovani che cercavano il nazismo e loro oggi che c'è qualcosa che non è andato storto, capito? Non si capisce, tu andando avanti con la trama degli anni 50 capisci perché stanno agendo in questa maniera nella modernità. È un film molto bello, è un film proprio di spionaggio classico. Belli, mi piacciono gli spionaggi. Non se ne fanno più di film di spionaggio. Infatti è proprio un film come non se ne fanno più, un film vecchio stampo, che ha tra l'altro secondo me verso il finale la miglior scena di lotta geriatrica degli ultimi anni, anziani che si malmenano. Però come farebbero gli anziani, è fatta bene, è una cosa molto molto inusuale, molto carina. C'è la grandissima Helen Mirren, che da quando ha fatto Red, il film dove c'era anche Bruce Willis, gli danno tutti i ruoli d'azione, benché lei sia una signora di una certa età, abbia interpretato la regina Elisabetta, però adesso gli fanno fare ruoli d'azione. Ed è un film che, se vi piacciono i film di spionaggio, sicuramente consiglio. Ma come fa a fare tutto? Questo è un titolo che mi settimana prossima. Mi incuriosisce, però vorrei capire che film è. Lo vedo lunedì. Mozzarella Stories, anche questo. E l'ho mancato Mozzarella Stories, era ieri, l'ho mancato. Bravo. Lo so. Vabbè, altri film che hai visto? Altri film che escono questa settimana, esce Crazy Stupid Love. Oh, allora, Crazy Stupid Love è proprio la commedia sentimentale classica ben fatta. Vi consiglio di andarla a vedere. Questa settimana consiglio tutto, tranne The Eagle. Ma è strano, sì. Sei tornato da lì proprio. È strana la distribuzione, non io. Io applico sempre lo stesso metro di giudizio. Sei tornato da Venezia, sei cambiato. Tutto quel denaro ti cambia. Secondo me sei cambiato da quando sei stato a Venezia. Tutte quelle feste, gente incontrata. Ma che ne so. Allora, Crazy Stupid Love è un film degli stessi registi di I Love You Philip Morris, che era un film con Jim Carrey e Ewan McGregor uscito l'anno scorso. Questo qui è una commedia molto molto classica in cui ci sono tanti personaggi diversi che hanno disavventure amorose, e più andiamo avanti più scopriamo che questi personaggi diversi che hanno disavventure amorose diverse sono in fondo uniti, c'è qualcosa che li unisce, e chiaramente a un certo punto capirete che più andiamo avanti più le storie si intrecciano sempre di più, e proprio come nei film di una volta, ad un certo punto, questa è la cosa che ho apprezzato di più, ad un certo punto si troveranno tutti insieme in un ambiente e se fossimo stati in un film degli anni 20 sarebbe finita a torta in faccia, cioè proprio una cosa. Se fossimo stati in un film anni 60 sarebbe finito con un inseguimento, tutti quanti che si inseguono correndo con una musichetta molto frizzante. Invece, visto che siamo in un film dei primi anni del primo decennio del 2000, è un film in cui da tutto questo intreccio che dovrebbe sfociare in una esplosione comica, invece c'è un momento di depressione, l'unico momento serio del film. È molto interessante, molto divertente, molto carino, e ci sta il grandissimo Ryan Gosling. Guarda che Ryan Gosling è un attore, è un attore che bisogna tenerlo d'occhio, e questo mi esplode. Sì, ti fa il botto? Ha fatto questo film che è molto carino. Ha fatto il nuovo film di George Clooney che si è visto a Venezia, chiamato Lady di Marzo, e lui è protagonista. Ed è quello di Drive, ecco che ritorna Drive. Aia. Un'altra volta, hai capito? Io qui che ti fa il botto, capito? Io li tengo d'occhio questi. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, allora diventerai tutta un'altra cosa. Una leggenda, signor Wayne, una leggenda. Noi abbiamo lottato insieme. Poi tu sei scomparso. E adesso questo male emerge. Ora Batman deve tornare a combattere. Ma se non esistesse più? Deve esistere. Beh, il Cavaliere Oscuro Ritorno, dai. Sì, questo te l'hai perso. Ci stanno mettendo l'acquolina alla gola con questi trailer che continuano a rilasciare. Bello. Il trailer è bellissimo. Vabbè, insomma, tanto per chiudere, sono le 20:25 e non abbiamo letto neanche un messaggio. Se ne è arrivato qualcuno, sicuramente qualcuno. Ce ne saranno un sacco di lodi nei miei confronti, no? Ieri ho visto L'Ultimo Terrestre, un film italiano che non sembra un film italiano. L'hai visto tu? Sì, confermo. Allora, è un film italiano che non sembra un film italiano, ma attenzione, sotto sotto è un film italiano. Cioè, secondo me, alla fine, la base è la solita dei film italiani, però ha tutta una patina, una copertina sopra che non lo fa sembrare. Guarda, quando ridi così sono insulti nei miei confronti, vero? Ma l'attore che fa Gargamella è Carlo Mazzone. No! Grandissimo! Vedi, guarda, c'ho un sacco di messaggi che ci siamo perduti. Ok, per Faust, ma di Cronenberg cosa mi dici? Allora, Cronenberg... Ma devi essere telegrafico. Sì, secondo me è un Cronenberg sottotono. Telegrafico. Bene. Dire che le vostre recensioni siano godibilissime è riduttivo, è cosa strana, vi fate capire. La domanda, ma qual è il cinema di un certo tipo? La sua risposta sono stata a dir poco illuminata. Questo è tuo fratello, eh? Mamma, ma dammi i messaggi! Devo pagare anche lui, cioè anche lui lo fa a pagamento, non lo fa gratis. Sto scrivendo la tesi sul diritto d'autore, mi sapete dare qualche info riguardo l'ambiente del cinema? Del tipo? Cioè, servirebbe una domanda più specifica. È sul diritto d'autore. Cioè, se vuole. Allora, guarda, posso fare così. Se ti serve di sapere cose riguardo il diritto d'autore, riguardo il cinema moderno, cioè storie di pirateria, eccetera, eccetera, contatta Guido Scorza, uno dei più grandi esperti italiani. Lorenzo Oliver ci scrivono, sì. Hanno ragione. Quindi tu consigli L'Ultimo Terrestre da vedere? Guarda, è un film interessante. Secondo me è un film che ha avuto, cioè, a me lì per lì devo dire non mi è piaciuto, ma anche per la collocazione. Cioè, è un film che se vai a vedere in sala sicuramente te lo godi, e come dice giustamente l'ascoltatore, è un film che non sembra italiano. Però è stato un errore metterlo in concorso a Venezia, perché non è un film da festival. Cioè, è un film che non regge il confronto con le altre opere da festival. Ma parlano di marziani, davvero? Sì, però in maniera molto divertita. Cioè, i marziani sono quelli grigi con gli occhi allungati, capito? È una cosa molto ironica, grottesca. Ah. Ed è un film in effetti molto curioso, e ha, siccome lui è un grande fumettista, quello che l'ha fatto GP, ha delle idee, dei concetti molto intelligenti sull'Italia di oggi. È molto furbo da quel punto di vista, furbo nel senso migliore, chiaramente. Drive visto all'Adriano a luglio, capolavoro vero, addirittura. Bravo, è verissimo. Era in sala con me, anche io l'ho visto a luglio all'Adriano. Come si chiama quel film di qualche anno fa con De Niro, Champagne, Mila Jovovich, che parla di un carcerato che esce di prigione qualche giorno. L'ho visto qualche giorno fa e mi è sembrato ottimo. Sean Penn e De Niro carcerato che esce fuori. Mila Jovovich. Non mi viene in mente la bellissima Mila Jovovich. La sempre bella e la più, meravigliosa. Più vecchia. Dai, andiamo, tanto lo cerco. No, siamo in chiusura, 55, dobbiamo andare. Non ci sono altri messaggi che mi lodano? Ma sì, si sbrodano tutti per te. Porca miseria. Questa di Gargamella, giuro. Che ne pensa Vasquez del fantastico Super 8? L'abbiamo già detto, un bel film per lui perlomeno. Bombe atomiche che usciranno nei prossimi giorni? Tanto sta cercando. Sì, allora uscirà L'Alba del pianeta delle scimmie. Uscirà, forse esce finalmente La ballata dell'odio e dell'amore, che è il nuovo film di Alex de la Iglesia, che andò a Venezia addirittura l'anno scorso. Molto, molto bello. Abbiamo detto Drive. Tra due settimane esce Cronenberg. E poi esce Sex and Zen 3D. Ah, hai capito? I Tre Moschettieri anche usciranno. Sì, uscirà anche una nuova versione dei Tre Moschettieri. Bar Sport, vedi, questo dovrò vederlo. Bar Sport. Ma sai per caso già il titolo del Cinepanettone? Se ne faranno uno? No, lo fanno, ma devo dire ancora non so il titolo, ancora non l'hanno rilasciato. C'è 100% Buffo la campana. Ma è sicuro che sia Mila Jovovich? Perché insomma Sean Penn e De Niro ne hanno fatti di film insieme, ma... Media malavitosa a base di caglio. Ma che cast, vediamo il cast. È lento, deve caricare, chiedo scusa. Oh, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Andrea Renzi, Giampaolo Fabrizio, Giovanni Esposito, Ida, scusate, mi ha scritto Ida Turturro, Tony Lavandeo, Laudaddio, Edoardo De Angelis. Che stai leggendo? Mozzarella Stories. Ah, Mozzarella Stories, il film che mi sono perso. Mi hanno detto che è carino, questo, prendetela con un'informazione con le pinze. C'era una volta un mondo che aveva le sue regole. Ma io penso che da tanta sporcizia viene fuori una cosa così pulita e candida come la mozzarella. A me mi viene il freddo addosso. Una volta usciti di galera, i boss tornavano a fare i boss. Stasera ci dobbiamo scordare di tutte le cose brutte del passato. A pagare abbiamo pagato. E mo, godiamoci la vita, Strani personaggi campavano di espediente. Murica ti dispiace, ogni tanto te venimmo a trovare. I cantanti cantavano le nostre storie e sognavano posti lontani. Qua si parla di date a Latina, Frosinone. Audite, po'. Tu sei nato per la musica leggera, Autilia. È pesante. Deve essere carino, Vasquez, dai trailer deve essere carino. Ce ne andiamo senza un vero perché, così come siamo arrivati, mentre Gabriele è rimasto inchiodato a cercare il film. Mi sono perduto, secondo me non c'era Mila Jovovich, non ve lo dico. Vabbè, non mi risulta questa cosa. Vabbè, ma lasciamo perdere, dai. Vabbè, grazie, ci sentiamo venerdì prossimo, o hai altri festival? Guarda che forse ce n'è uno tra due settimane, ma venerdì prossimo ci sarò. Anzi, ti dirò di più, venerdì prossimo torno apposta da Milano, capito? Prendo il treno in giornata per venire qua. No, perché vai a Milano? Interviste, c'ho l'hai detto, hai lanciato la palla per farti chiedere che vai a fare a Milano. Che abilità. Che interviste, interviste di cui non ti posso parlare, non mi chiedere di più. Grazie a tutte e a tutti, ci sentiamo se tutto va bene lunedì e ricordatevi sempre che è una pietra che rotola non raccoglie mai sugo. Grazie Gabriele, veramente grazie. Oh, è sempre un piacere. Comunque ti aspettavano, perché c'erano centinaia e centinaia di messaggi. Ma anche io aspettavo loro. Ti aspettavano proprio.